Tempo di Sport con Carlo Genta. Oggi vi consiglio, nell'augurarvi buona Pasqua, di deporre per un attimo le uova e di prendere il telefono, perché è una giornata di campionato che si annuncia interessantissima, forse decisiva, chissà. Giorgio De Luca in redazione, Fabio Cantadori in regia, insieme fino alle 18 in questo sabato prepasquale che ci regala una Serie A zeppa di gol e che dà alla Juventus, che mette nell'uovo di cioccolato della Juventus la possibilità del sorpasso, perché a San Siro accade l'incredibile nel giorno del ritorno di Cassano, che ha giocato una convulso quanto appassionante finale di partita. Ebbene, la Fiorentina, peggio squadra della Serie A come rendimento esterno, aveva vinto solo a Novara fin qui, fa il colpo grosso a San Siro, peraltro meritandolo, vincendo 2-1, e in questa specie di romanzo prepasquale trova addirittura i gol partita di un ex juventino alla prima volta con la maglia viola e che non segnava da un'eternità, e cioè Amauri. La partita è andata così, con un rigore molto dubbio che immagino molti di voi avranno anche voglia di commentare, che per fortuna dico non è decisivo, atterramento presunto tale di Nastasic su Maxi Lopez, che è stato scelto fin dall'inizio da Allegri. Celi vede, fischia rigore, Ibrahimovic lo trasforma, Milan che ci prova con le energie che restano nel serbatoio dopo la settimana molto difficile, dopo l'eliminazione di Barcellona, colpisce un palo al 39esimo con Maxi Lopez, ma nella ripresa la Fiorentina costruisce una vittoria che vale forse la spinta decisiva verso la salvezza, anche se la situazione dei viola continua ad essere delicata. Al secondo minuto, lancio di Lazzari da metà campo, Jovetic si trova da solo davanti al portiere del Milan e segna il gol dell'1-1. Su cui Abbiati può davvero poco in realtà. Al 44esimo, a un minuto dalla fine, Mexès perde un pallone di testa, sbaglia un intervento di testa. C'è un triangolo tra Mauri e Jovetic ed è proprio della fuoriclasse in potenza della Fiorentina, cioè Jovetic, l'assist decisiva da Mauri che da due passi infila il gol partita. Dunque la Fiorentina vince 2-1 a Milano, il Milan è a 64 in classifica, la Juventus alle 18:30 gioca a Palermo e ha la possibilità, vincendo, di scavalcare il Milan in testa. Quanto alle altre partite, gli spunti di interesse certamente non mancano, anche perché la Roma crolla letteralmente a Lecce, un Lecce che a questo punto, con il girone di ritorno di Serse Cosmi, meriterebbe la salvezza, e non è detto che non riesca ad agguantarla, perché ha 4 punti dalla zona salvezza, ma oggi distrugge una Roma imbarazzante, improponibile, soprattutto in retroguardia. Lecce che passa dopo 22 minuti con Muriel, che si trova da solo davanti alla porta su un lancio dalla metà campo di Giacomazzi. Il sinistro di Michele dice 2-0 al 44esimo ed è un risultato meritatissimo. E poi nella ripresa di nuovo Muriel al quarto, dopo aver saltato come birilli 2 giocatori della Roma. All'11esimo Ainze atterra lo scatenato Muriel, rigore trasformato da Di Michele. E contano davvero poco, se non per le statistiche, i 2 gol dei giovani nel finale. Al 43esimo Bojan Krkić e al 45esimo Lamela, su punizione che peraltro aveva dato lo stesso Lamela l'assist a Bojan, sono gli unici 2 piccoli raggi di sole in un pomeriggio disastroso appunto per la Roma. E la corsa verso il terzo posto sembra davvero una gara tra macchine che hanno pochissima benzina, non ne ha moltissima anche l'Inter, la seconda Inter di Stramaccioni, che pareggia 2-2 in una partita dall'andamento molto curioso sul neutro di Trieste con il Cagliari. Segna Story, un gol bellissimo in girata dopo soltanto 5 minuti di gioco, ma basta un minuto a Milito per pareggiare su assist di Zárate, che in mezzo a 3 fa forse la cosa più bella della sua avventura nerazzurra fin qui, pescando Milito in posizione da controllare, da verificare. Milito a centro area non sbaglierà mai, infatti non lo fa. Al 16esimo della ripresa Piniglia schiaccia di testa alle spalle di Castellazzi un cross di Daniele Conti e poi stupidamente si fa cacciare, era già stato ammonito, esultanza isterica ai bordi del campo, maglietta sollevata e insomma esultanza smodata. Non trovo niente di sbagliato, anzi trovo corretta l'espulsione di Guida. Fossi Cellino, multerei il mio giocatore nonostante il gol. Anche in questo caso all'Inter basta pochissimo per tornare quantomeno in parità, con Cambiasso che si trova al 19esimo la palla tra i piedi su un cross dalla destra, e lo stesso Astori che aveva portato Cagliari in vantaggio che buca di testa l'intervento sul cross di Forlan. Altri risultati: il Siena fa un passo credo decisivo verso la salvezza, perché vince 2-1 a Bergamo con l'Atalanta, che era passata al nono del primo tempo su un meraviglioso assist esterno di Peluso e una spaccata di Schelotto. Al 22esimo Consiglie, portiere dell'Atalanta, atterra l'Arrondo, è rigore piuttosto netto, anzi netto, che l'Arrondo trasforma, e Mattia Destro continua a dimostrare di essere uno dei giovani più interessanti del nostro calcio, anche perché segna gol difficili e pesantissimi. 46esimo della ripresa, salta due volte Stendardo e con tutta la freddezza del mondo piazza la palla in diagonale sul palo lontano, dando al Siena una vittoria che equivale alla salvezza. Basta dare un'occhiata alla classifica, il Siena è ora alla pari con il Palermo, che deve giocare a quota 39 a metà graduatoria. Cesena-Bologna è uno 0-0 che non serve a nessuno, soprattutto al Cesena che è ormai condannato. Il Chievo batte soffrendo non poco il Catania 3-2, eppure sembrava tutto facile per la squadra di Verona, perché al settimo minuto Bradley, piatto destro, ha portato il Chievo in vantaggio. Al 19esimo c'è un episodio importante con Spolli che atterra Pellissier, è rigore ed espulsione di Spolli stesso. Pellissier trasforma dunque 2-0 con il Catania in inferiorità numerica. La squadra di Montella fa di tutto tranne che arrendersi. Al 32esimo c'è l'autorete di Andreolli, quindi si va a riposo sul 2-1. Al quinto della ripresa, bellissimo assist di Pellissier per Paloschi, che segna il 3-1 e prova a riaprire nel finale al Miron al 40esimo 3-2, ma finisce così. Novara-Genoa nel giorno del ritorno di Malesani sulla panchina del Grifone, in questa stagione controversa e disgraziata per il Genoa, certamente al di sotto delle aspettative. Un Genoa che credo dovrà lottare fino in fondo per una salvezza tutt'altro che scontata. 1-1 a Novara, risultato che anche in questo caso non serve o serve a pochissimo ad entrambe. Al settimo minuto il Genoa passa con una girata di Palacio deviata probabilmente da Marco Rossi, il capitano. Al 23esimo gran gol di Mascara in controbalzo di destro da 20 metri su una respinta di pugno di Fre, e finisce 1-1. Tra quelle che corrono per il terzo posto con poca benzina, come dicevo prima, stasera tra l'altro chiuderà il programma della 31esima giornata un Lazio-Napoli che ha l'aria di una sorta di spareggio per questa posizione importantissima. Vediamo cosa dice l'Udinese, che oggi riprende ossigeno battendo un Parma che pure continua a stare non benissimo, per la verità. Asamoah, migliore in campo per i friulani, apre la marcatura al 45esimo su assist di Di Natale. Il raddoppio dello stesso capitano dell'Udinese all'11esimo della ripresa da un gol splendido, diagonale secco che si infila dove il portiere del Parma Mirante non può arrivare. Al 39esimo Lucarelli mischia dopo un'azione di calcio d'angolo, prova a riaprire i discorsi, chiusi definitivamente al 48esimo del secondo tempo dallo stesso Asamoah in tap-in su respinta di Mirante e su conclusione di Di Natale. Eccoci con la classifica e con la possibilità di sorpasso, con i venti di sorpasso che soffiano sulla Juventus a Palermo. Milan 64, Juventus 62, a 51 troviamo la coppia Udinese e Lazio, con l'Udinese che gioca, che stasera riceve il Napoli, che di punti ne ha 48. La Roma si inchioda a Lecce, come detto, e resta a 47. L'Inter è, a mio parere, eccessivamente lontana da quel terzo posto, che è più un'illusione che un sogno realizzabile. 45 punti per i nerazzurri, ma molte squadre davanti. Il Catania di punti ne ha 43, quindi Chievo 42, Chievo salvo. E martedì sera, nel match che aprirà il programma del turno infrasettimanale, martedì sera il Chievo riceverà un Milan ferito. Siena e Palermo 39, Cagliari 38, Atalanta e Bologna 37, la Fiorentina fa tre bei respironi di sollievo. La squadra nelle ultime 9 giornate, la squadra che era andata peggio in tutta la Serie A e onestamente aveva una faccia da retrocessione prima di questo pomeriggio, sale a 36 punti, dietro ci sono Parma e Genoa con 35, quindi in zona rossa, Lecce 31, Novara 25 e Cesena 20. Questo il prodotto del pomeriggio, che ha regalato un sacco di gol, e facciamo anche i conti. Gianni da Parma, buonasera. Gianni da Parma? Non c'è. Andrea dalla provincia di Livorno, c'è? Sì, ci sono. Eccolo. Buonasera. Buonasera. Allora, io sono tifoso milanista dai tempi di Maldera, Calloni, sì. Chiodi, quindi anni 70. Sì. Anni 70. Vagamente mi ricordo un Milan così privo di gioco a centrocampo, mm-hmm. e soprattutto con un allenatore che continua a investire, secondo me instigabilmente, perché Allegri mi sembra, oltretutto è livornese come me, quindi sì, appunto. Mi sembra una persona abbastanza assennata, su un Emanuelso che potrebbe essere bravo a fare, lo so, spero sia bravo a fare spogliatoio, a dire le barzellette, sia simpatico, ora... ma proprio lui e il gioco del calcio in una squadra come il Milan, secondo me sono due cose completamente diverse. Mi sembra sia, è meglio l'attuale Seedorf che gioca su, con una gamba sola. Seedorf con una gamba sola è meglio di molti, credo. Emanuele è proprio l'anticalcio, non lotta, non sarebbe veloce ma controlla male la palla. Mi sembra, ecco, che non voglio addossare tutte le colpe a lui in un centrocampo bollito e oramai anche datato per certi aspetti. Però Allegri non ha il coraggio di provare a cambiare qualcosa. Lanci lunghi nella speranza che sì, sa, però non ha il coraggio di cambiare qualcosa. Emanuelson nelle ultime settimane qualcosina aveva dato. È chiaro che Boateng è un giocatore fondamentale per il Milan, però sa anche lei quali sono le condizioni di Boateng. Si insiste su Emanuelson, che non è esattamente la stessa cosa. Oggi il Milan, a mio parere, ha pagato comunque anche la notte di Barcellona, la delusione, la fatica fisica, eccetera. Va detto che la Fiorentina non l'ha rubato. Mi sembra che stia parlando degli Orossi. Sentiamo. Ci vuole la partita perfetta. Ci premevo soprattutto fare bene oggi, perché siamo un po' rimaneggiati. Abbiamo giocato con diversi giocatori che magari sono fuori da un po' di tempo, si sono fatti trovare pronto, quindi sono contento, perché penso che lo spirito è quello che certe volte non ci ha contraddistinto. Massimo, questo era Degli Orossi ovviamente felice. Fiorentina partita perfetta, beh sì, a modo suo ha giocato la partita perfetta, perché in realtà non si è mai arresa, anche quando verso la metà del secondo tempo il Milan stava premendo forte, probabilmente con l'ultima energia che aveva nel serbatoio. Si è rivisto, e questa è l'unica nota positiva, credo, nel pomeriggio del Milan. Antonio Cassano, che è entrato nell'ultimo quarto d'ora, ha reclamato un rigore alla fine per una spinta di De Silvestri. A mio parere poteva starci più quello di quello che è stato concesso per una carezza di Nastasic a Lopez, però tant'è, insomma, sono forse polemiche inutili e sterili queste. Gianni da Parma, buonasera. Eccoci qua, era caduta la linea. Niente, io volevo dire, quando mancano 6-7 giornate alla fine del campionato, i giornali fanno quei bellissimi specchietti con le stelline delle difficoltà. Allora è bello, no, fare questi esercizi, però le stelline di difficoltà non contemplano tanti fattori psicologici, fisici, atletici, e infatti oggi si è visto che le stelline sono andate tutte a ramengo. Gianni, il calcio non è un gioco fatto per le stelline. Anch'io, soltanto che è bello, no, questa cosa di vedere... Ma il calcio è bello per questo, perché è un gioco che non va bene con le stelline, cioè non possiamo mettere le stelline sulle tappe di montagna del Giro d'Italia o del Tour de France in modo realistico. Sulle partite di calcio, soprattutto a fine stagione, quelle stelline sono davvero delle cose inutili. Sono davvero delle cose inutili, perché il calcio è il gioco più bizzarro del mondo, ed è per questo che è così bello. Dica. Sì, infatti, quindi il Cesena, scusi, il Lecce che va a fare una rullata contro la Roma, con molta colpa della Roma, per la verità, molta colpa della Roma. Oggi la Roma forse è la peggiore della stagione, possiamo discutere anche di questo. È la squadra più ondivaga del nostro campionato, forse era anche prevedibile questo andamento un po' sclerotico della Roma, un po' su, un po' giù, in altalena, con questo gioco bello, bizzarro e strano, con molti interpreti giovani. Oggi era senza Totti e così via, però è una Roma molto difficile da leggere, dall'andamento certamente non lineare. Però giocare una partita ai tratti della vergogna, mi viene da dire, come ha fatto oggi a Lecce, sono curioso di sentire quando arriverà Luis Enrique. Io saluto e ringrazio il mio amico Enzo Bucchioni, direttore di QS. Ciao Enzo! Ciao, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovato Carlo. Visto Ciao. Che sorpresona? Sì, sì, assolutamente, è una clamorosa. Clamorosa non al Cibali ma al vecchio San Siro. Vabbè, concediamoci una cosa un po' d'antan, che è l'uovo di Pasqua, l'uovo di Pasqua, come si diceva negli anni 60, ritiriamolo fuori. Fuori l'uovo di Pasqua, l'uovo di Pasqua che è per due, per il Milan ci trova una fialetta di veleno e la Juventus una pepita d'oro. Sì, aspettiamo, deve ancora giocare la Juventus. Beh, perché sì, a volte sorpresa può chiamare sorpresa, chi lo sa, il calcio, ti ascoltavo, lo dicevi tu un attimo fa, è strano, anche per questo ci piace, perché chi l'avrebbe mai detto, una Fiorentina che ha perso in casa con il Chievo domenica scorsa sarebbe riuscita a fare un risultato così, eppure ce l'ha fatta, giocando bene, non è un risultato casuale. No, assolutamente, nulla ha rubato dopo aver subito invece un rigore molto molto chiacchierato. Se il Milan avesse vinto per quel rigore, magari fiumi di lacrime da qualche altra parte. Non è andata così, mi viene da dire quasi per fortuna, ecco. No, io sottolineo per fortuna, hai detto benissimo, ecco. Sono d'accordo con te, perché altrimenti saremmo qui a spargere altro veleno su questo campionato, altre polemiche spesso inutili, spesso pretestuose, un errore dell'arbitro, un altro errore, l'ennesimo errore di un arbitro è stato superato dalla Fiorentina. Dobbiamo ringraziarla anche per questo, perché stasera sai quante ne avremo sentite. Sinceramente ne facciamo meno, ma facciamo anche un appello a questi dirigenti, a questi allenatori, basta, pensate a preparare bene le squadre, a giocate, perché poi è un danno a tutto il movimento calcio, non ha bisogno ma di altri danni dopo quello che sta succedendo tra scommesse e cose varie. A proposito, come la vedi sta storia? Sta strabordando, Ma io la vedo molto male, perché fra i numeri, leggendo un po' tutto, siamo sui 50 giocatori coinvolti fra Serie A, Serie B e Lega Pro, è un numero molto molto importante. Nel calcio italiano uno scandalo così non c'era mai stato, le proporzioni sono veramente imponenti, e questo ti dice anche quanta assenza ci sia stata da parte delle istituzioni, che non hanno vigilato, perché dei rumors c'erano, poi molti giocatori che sono stati presi con la marmellata in tasca, questa volta in tasca o sul conto in banca, sì, meglio, erano già noti, molto noti, sono stati addirittura graziati, certe volte assolti. Sì, però guarda Enzo, io ti dico, pochi controlli da parte degli organi federali, rumors eccetera, sono d'accordo, però io trovo, dal punto di vista strettamente giuridico, abbastanza aberrante come concetto in assoluto la responsabilità oggettiva, in assoluto, ma non in casi come questo, perché tu parli di mancanza di vigilanza, di sorveglianza da parte delle istituzioni, io parlo invece di mancanza di sorveglianza e di vigilanza da parte delle stesse società, che non possono non sapere quello che combinano i loro tesserati. Guarda, ci arrivavo, io l'ho preso un pochino larga, ci arrivavo e sono perfettamente d'accordo con te. Ho sentito dire qualcuno che vuole abolire o quantomeno ridimensionare la responsabilità oggettiva. No, assolutamente, perché la squadra è come una famiglia. Chi ha dei figli magari poi non ci riesce lo stesso, qualcuno gli sfugge, ma deve sapere cosa fa il figlio la sera quando va fuori, gli amici che frequenta, o quantomeno ci prova, perché, e lo spogliatoio è una famiglia. Io mi rifiuto di credere che il direttore sportivo non abbia qualche referente nello spogliatoio, mi rifiuto di credere che un presidente, e se non ce li ha è colpa sua, e quindi quindi non fa bene il suo lavoro, quindi sono perfettamente d'accordo. La responsabilità oggettiva è un cardine del diritto sportivo e deve rimanere tale, soprattutto in un'occasione come questa, altrimenti gli alibi si moltiplicano e non peschi più nessuno, non condanni più nessuno. Evidente. Enzo, per il Milan è un passaggio a vuoto così, che arriva al termine di una settimana difficile, eliminazione dal Barcellona, stanchezza, caldo, eccetera, o è un segnale importante? Io credo sia un segnale molto importante, perché io ci metto nel conto anche la panchina di Allegri, non è così più salda come si pensava. E ho sentito molte critiche da parte di Berlusconi, spesso ci sono dei rumors che ci portano anche a nomi importanti come quello di Capello, che è un allenatore senza panchina, quindi come tale sempre nei pensieri di Berlusconi, lo sappiamo questo. E non mi sembra così sereno Allegri, anche le scelte di oggi, la squadra è stanca, chiaramente l'eliminazione dal Barcellona ha pagato dal punto di vista psicologico ma anche fisico, però le scelte di oggi sono poco serene. Quando ho visto un centrocampo così muscolare, Nocerino, Muntale, Ambrosini, io dico, ma il Milan non ha niente di meglio. Sì, sicuro, che ha di meglio. Enzo, possiamo sentire insieme Luis Enrique cosa sta dicendo? Un messaggio a chi l'aveva un po' delusa in mezzo al campo, è così? No, per me credo che non sia giusto parlare dei singoli o parlare dei miei calciatori in questa una partita come questa. E come al solito credo che ho fatto dall'inizio, mi prendo sempre tutta la responsabilità, per quello sono l'allenatore e niente, oggi era una partita per noi che diventava molto importante, era una partita che potevamo fare una prestazione ottima e presentare a tutti che eravamo lì, ma siamo stati lontanissimi da quello che abbiamo bisogno per vincere. Le chiedo, com'è possibile che siamo ad aprile e questa squadra è lontanissima addirittura da quello che lei da luglio sta chiedendo ai giocatori? No, una settimana è lontana oggi di battere a Lecce e un'altra settimana è cercana a quello che vediamo. Oggi né la profondità, oggi né il possesso di palla normale, abbiamo fatto degli errori incredibile, quando uno non è in grado di essere un po' più contundente soffre, e oggi abbiamo sofferto tantissimo. Questo Luis Enrique, sì, con Mediaset Premium, Enzo, quando non è in grado di essere contundente, la Roma è stata imbarazzante oggi, no, contundente. Il corpo contundente, corpo questa contundente. È roba da cronaca nera. O da blob, sì, o da blob, sì, a seconda dei gusti. Sì, veramente imbarazzante, detto bene, la Roma oggi non è mai entrata in campo, ha avuto delle cadute frequenti quest'anno. Io sono molto intrigato da quello che ha fatto Luis Enrique, lo dico anche oggi dopo questa bruttissima sconfitta. Ha lavorato molto bene, secondo me ha portato delle novità nel nostro campionato dal punto di vista del metodo di lavoro, dal punto di vista della tattica, però è faticoso. Quando hai soprattutto una squadra di giovani come questa, gli alti e bassi sono da mettere in preventivo. Forse sono illusi a Roma che sarebbe stato più facile, non è così. Quando ti manca un giocatore di riferimento come Totti che ti dà quel carisma che questa squadra non ha, e diventa tutto più difficile. Il tempo gli è stato dato a Luis Enrique, ora mi chiedo se questa squadra ha la personalità giusta per continuare. Comincia a chiedermelo ora, siamo quasi alla fine, ma io credo che i dirigenti della Roma se lo debbano chiedere per primi loro, perché un campionato così lo puoi fare, due no. No, questo è evidente, questo è evidente. O vedi la strada davvero della crescita, o è chiaro che non puoi andare in altalena e fare il ragazzino tutta la vita. Enzo, io ti ringrazio davvero e ti auguro buona Pasqua. Alla prossima. Anche a te e a tutti gli amici che ci ascoltano, è sempre un piacere. A presto, ciao. Grazie. Peccato, abbiamo solo ancora una mezz'oretta per chiacchierare di questa giornata, sarebbe servito molto più tempo, come la domenica. Vediamo come ve la cavate con i titoli. Io direi terremoto viola sul campionato. Vi piace? 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, per i messaggi. È chiaro che abbiamo visto la prima metà, la seconda metà la vediamo dalle 18:30 in poi, perché si tratta di capire cosa la Juventus che Conte ieri ha detto: voglio a tutto gas, voglio una sgommata, voglio una Juventus a tutta manetta, vediamo cosa succede a Palermo. Chi scrive? Per il Milan uovo di Pasqua a Mauro, a proposito di titoli, sospetto colpevole in Giorgio De Luca. Roberto da Pavia. Buonasera. Buonasera. Volevo parlare del Milan, no? Sì. Perché il Milan è fermo, secondo me il Milan è fermo a quello di Leonardo. Lui aveva fatto veramente una cosa bella portandolo in Coppa dei Champions League. Perché Allegri da quando è arrivato non ha inventato niente, ha vinto un campionato. Non è poca roba. Non mi sembra poca roba. Ha vinto un campionato quando non ha partecipato nessuno. L'Inter l'anno scorso è stato un campionato mediocre e Milan l'ha vinto. Ma Roberto, mi sembra un po' troppa rabbia questa, perché non è vero che era un campionato mediocre, perché l'Inter non ha partecipato, perché insomma non la vedo così. Mi sembra che Allegri abbia vinto un campionato, che sia in testa anche in questo, e non condivido neanche il fatto che non abbia inventato nulla, perché la formula di questa stagione, che comunque al netto degli infortunati è una formula che funziona, con i tre giocatori dietro e un trequartista anomalo come Boateng, diciamo che ha costruito la squadra intorno a Ibrahimovic, come è giusto che sia. Le propongo di ascoltare insieme cosa sta dicendo Allegri con Mediaset. Si trova sempre i lanci lunghi dalle retrovie, vuol dire che non sa più niente fisicamente, oppure sono altri motivi magari psicologici? Ma c'era alla fine un po' di fretta nel voler andare a vincere questa partita, invece bisognava rimanere un po' più ordinati, però il campo non ce lo permetteva neanche, permetteva alla Fiorentina sicuramente di venirci a pressare. I ragazzi credo che abbiano fatto il massimo di quello che potevano fare, Dispiace uscire sconfitti, soprattutto perché è un'occasione per rimanere ancora in testa. Ora vediamo, aspettiamo cosa fa la Juventus, ma mancano ancora 7 partite, quindi è ancora tutto deciso, è tutto un ballo. Massimo. Sì, anche l'anno scorso, dopo l'eliminazione della Champions, avevate pareggiato con il Bari, una gara alla vostra portata. E perché si spende tantissimo in partite così importanti in Europa dal punto di vista fisico, o la delusione del KO comunque pesa dell'eliminazione? Ma no, la delusione del KO non ha pesato assolutamente. Abbiamo avuto un grande dispendio di energie, però è anche vero che credo che il campo oggi non ci abbia molto aiutato in queste partite qui, dove magari il campo ti può dare una mano nello sviluppo del gioco. Oggi non l'è stato, ecco, e purtroppo è un problema. Trovo preoccupante se Allegri dice che il Milan oggi ha dato tutto quello che aveva e ha fatto tutto quello che poteva, perché non è stato tantissimo. Adesso il campo può essere una giustificazione, ma fino a un certo punto, perché è chiaro che il prato orrendo di San Siro agevola magari chi si deve difendere, come aveva agevolato il Milan contro il Barcellona quell'altra sera, però non può essere tutto qui. Roberto, doveva finire? Io quando non ho finito, quando parlavo di Leonardo, dicevo lui, dopo che è andato via Leonardo, gli hanno preso Allegri, Ibrahimovic, Boateng, gli hanno preso i giocatori per vincere lo scudetto, che lui non ha proprio inventato niente, anzi ha danneggiato il Milan, perché ha permesso che la vendita di Pirlo, che è l'unico giocatore che quando si è disperato contro il Barcellona dai la palla a Pirlo e te la tieni in cassaforte e gestisce i tempi. Milan senza tempo a centrocampo, corre il doppio degli altri, perché corrono i loro, non come fanno a correre la palla. Quello che volevo dire, poi Boateng è un giocatore che fa 10 partite all'anno, si parla molto di Patrick, ma anche Boateng ha muscolare così, quindi se uno vende Pirlo deve avere Fabregas, non può avere Aquilani. Sì. Grazie Roberto, se uno vende Pirlo deve avere Fabregas se vuole giocare in una certa maniera. L'anno scorso Allegri ha vinto con pieno merito il campionato disegnando un Milan diverso, un Milan, ripeto, probabilmente più adatto, perché anche qui sta l'intelligenza di un allenatore, cioè utilizzare quello che al meglio quello che ha a disposizione, ha un patrimonio come Ibrahimovic e cerca di metterlo nelle condizioni migliori possibili. Si è inventato questo centrocampo di cursori, un centrocampo in cui anche oggi c'erano molte assenze. Boateng è stato fuori a lungo e, ripeto, non sarà un fenomeno, è un giocatore di grande energia, di non grandissimo talento se vogliamo, però è un giocatore che in questo disegno, in questo progetto ha grande importanza, così come ha grande importanza un giocatore come Van Bommel, che pur nella sua lentezza è uno che sa gestire i tempi e i ritmi. Oggi non c'era né uno né l'altro, si è rivisto Aquilani anche lui fuori per molto tempo, non mi pare di poter dire che Nocerino sia stato un acquisto sbagliato per il Milan. Dunque, io capisco la rabbia dei tifosi, però quanto detto dall'amico ascoltatore mi sembra eccessivo, anzi sono certo sia eccessivo. Marco da Padova. Sì, buonasera, salve, chiamo da Trieste, dove ho visto la gara dell'Inter. E cosa mi dice della gara dell'Inter, che io ho visto? Dico che ho ravvisato sempre la solita sterilità di gioco, perché non c'è nessun giocatore che riesce a saltare l'uomo, a creare la superiorità numerica. Questa non è una novità. E i problemi di sempre, insomma, un Inter che in 10 per mezz'ora non è riuscita a prevalere sul Cagliari. Sì. Insomma, è necessaria una ripulita totale, purtroppo, dico purtroppo perché questi sono grandi giocatori, ma è ora di cambiare tante componenti di questa squadra, sì. E dando soprattutto più velocità. Certo, non mi sembra nulla di nuovo, cioè è la falsa riga seguita dall'Inter in tutta la stagione questa, cioè una squadra incapace di cambiare passo, una squadra usurata, esausta e nei suoi interpreti più prestigiosi. È chiaro che la partita di oggi, seconda di Stramaccioni, non ha aggiunto nulla a queste idee ormai consolidate. Saluto e ringrazio invece Andrea Schianchi dalla Gazzetta dello Sport. Ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori. Dammi un titolo per questa giornata. Io ho detto terremoto viola sul campionato, ma tu sei più bravo. No, beh, ci sei riuscito bene. Adesso però bisogna aspettare che cosa succede a Palermo. Perché... La seconda metà del titolo. Esatto, perché adesso tutti danno per sicuro il sorpasso della Juve. E tu lo dai per sicuro? Beh, io vorrei vedere la partita, sono abituato a giudicare a cose fatte, quindi direi aspettiamo, insomma. Io penso che sia possibile, perché comunque a livello psicologico è chiaro che la Juve andrà in campo cercando di azzannare gli avversari, caricata a pallettone. Certo, perché sanno di avere un'opportunità effettivamente unica. E devo dire che il Milan ha realmente al momento buttato via la vetta della classifica. Sì, ma tu pensi che sia un passaggio a vuoto estemporaneo questo? Io sono rimasto, fossi milanista sarei preoccupato per le parole di Allegri, cioè abbiamo dato tutto quello che avevamo, abbiamo fatto il massimo di quello che era possibile e la Fiorentina oggi non ha rubato nulla in questo 1-2. Sì, sono d'accordo sul fatto che non abbia rubato assolutamente nulla, tendo a, avendoli sentiti per tantissimi anni, tendo un pochino a, tra virgolette, sdrammatizzare le parole del dopopartita, perché so che sono spesso dette sull'onda delle emozioni, dell'entusiasmo, dello scoramento. Fondamentalmente credo però che ci siano delle notevoli responsabilità tecniche di Allegri? Secondo me sì. Quali? Secondo me sì, perché non dare ricambi a centrocampo. È vero che uno dice ma non ce n'erano di ricambi a centrocampo. Non è vero che non ce n'erano di ricambi a centrocampo, perché Aquilani si poteva far giocare a centrocampo, Emanuelson si poteva far giocare a centrocampo facendo risparmiare qualcuno e facendo giocare magari Robinho dall'inizio, sì, assieme a Maxi, assieme a Ibrahimovic. Cioè, qualcosa devi comunque cercare di inventarti se ti accorgi che la squadra è con le pile scariche, perché arriva da una partita snervante come quella di Barcellona. Io penso questo, ma questo l'ho pensato subito dopo aver visto la formazione, quindi ancora sullo 0-0, poi l'ho continuato a pensare anche sull'1-0 per il Milan. Sì. Dopodiché questa squadra ha dimostrato, secondo me, ancora oggi, quando doveva poi recuperare, cercare di andare sul 2-1 e poi cercare di recuperare il pareggio, ha dimostrato, secondo me, di avere delle enormi carenze di gioco, perché la soluzione è sempre palla lunga per Ibrahimovic e speriamo che lui risolva. Allora, in Europa abbiamo visto che non risolve proprio niente. E su in Italia qui, però, di solito sì. In Italia di solito risolve, però non può essere questa l'unica chiave di volta di una squadra, secondo me. Secondo me è una grande squadra, deve avere diverse possibilità per arrivare alla rete. Poi c'è anche la soluzione Ibrahimovic, su questo non c'è dubbio, però sì, devi avere anche è un altro. Po' Ibrahimovic però che pretende questo, eh. Sì, ho capito, però sai, Ibrahimovic pretende questo, Ibrahimovic non va d'accordo con Pato, Ibrahimovic vuole questo, Ibrahimovic vuole quest'altro, insomma, mettiamoci poi d'accordo. Ibrahimovic è un giocatore importantissimo, un giocatore del Milan, però, sì, sì. Esatto, però insomma va anche gestito. Tornando alla Juventus di questa sera, mettiamo che vinca a Palermo. È il momento decisivo? Sì, secondo me sì. Se la Juventus vince a Palermo, esagero e dico le può vincere tutte. Però davvero le può vincere tutte, perché sono in un momento di forma fisica sì, notevole, che peraltro dura da tutta la stagione, mi viene da dire. Non hanno grandissimi problemi con gli infortuni. Sì. Il Milan ha grandi problemi invece con gli infortuni. Io non conto tanto il calendario, perché in questa situazione della stagione, secondo me, il calendario non conta tantissimo, sì, perché contano soprattutto le energie fisiche e nervose, contano soprattutto queste. Sono d'accordo. Perché obiettivamente Milan e Juventus sono superiori a qualsiasi avversario vadano ad affrontare. Sono d'accordo. Su questo credo che non ci siano dubbi. Quindi a questo punto penso che la differenza davvero possa essere la partita di stasera. Secondo me, se la Juve vince, non la beccano più. Rischiano di non beccarla più, a meno che poi non ci sia fino al campionato strano, tipo quello di un paio di stagioni fa con l'Inter e la Roma. Insomma, però in linea di massima, per come sta adesso la Juventus, mi sento di appoggiare abbastanza la tua tesi. Andrea, ti ringrazio, alla prossima. Grazie a voi. Grazie Andrea Schianchi. Traffico, poi torniamo con Francesco Dalatino, un altro paio di ascoltatori, e poi per chiudere voglio cambiare argomento, lasciare il calcio, tanto aspettiamo la Juventus, perché perché stasera alle 6:30 avremo modo nei prossimi giorni di parlarne, e vorrei dare un'occhiata agli appuntamenti di domani, che sono quelli su due ruote. Francesco da Latina, buonasera. Buonasera a voi, complimenti per la trasmissione intanto. Grazie, mi dica. Volevo dire due parole sulla situazione del Milan. Sì. Diciamo che secondo me è una squadra più abituata a lamentarsi che a lavorare. Questa è la maggior differenza tra il Milan di quest'anno e la Juve di quest'anno. E secondo me ha pagato anche delle... Francesco, anche quanto lamenti, diciamo che la Juventus al limite si lamenta e lavora. Perché quanta lamenti siamo lì, volevo dire che anche a livello di tifoseria, anche a livello di dirigenza, ci si lamenta più sponda rossonera, nel senso che delle responsabilità evidenti che vanno divise tra il presidente Berlusconi. L'ultimo esempio è stata la cessione di Pato, congelata proprio dal presidente, sappiamo tutti poi in che condizioni fisiche è stato Galliani, che circa due o tre settimane fa ha affermato vinciamo tutto, e due su tre le ha fallite, prima dell'eliminazione in Coppa Italia e dell'eliminazione in Champions. E poi c'è Allegri, che secondo me non riesce a trasmettere la sicurezza di gioco che trasmetteva lo scorso anno. Ora dico, queste responsabilità ci sono, oppure ogni volta è colpa una volta del campo, una volta dell'avversario? Cioè, io direi che, guardi Francesco, io direi che qualche responsabilità c'è per ogni componente che lei ha citato. Non dimentico però che il Milan è attualmente primo in classifica, vediamo cosa fa la Juventus. È stata una settimana molto complicata per i rossoneri, oggi una partita storta. Io continuo a pensare che il Milan sia al momento favorito per la vittoria finale, per la vittoria del titolo. Ci sono responsabilità, ci sono giustificazioni o alibi, se volete, che possono essere quelli dei tanti infortuni di giocatori chiave, però anche in questo bisogna anche andare a verificare in che condizioni sono verificati gli infortuni, perché troppi lungodegenti nel Milan, e non è nemmeno la prima stagione che questo accade, quindi responsabilità possono essere diffuse. Dico soltanto che Milan ha già perso con la Fiorentina in casa, ma non è finita qui, io credo, la corsa verso lo scudetto né del Milan né della Juventus. Sono molto curioso di capire come si svilupperà. A proposito di corse, voglio cominciare a dare un'occhiata al giorno di Pasqua, in cui ovviamente calcio non ne avremo, ma avremo due grandi avvenimenti su due ruote, perché si apre il Moto Mondiale in Qatar, via della corsa MotoGP, ore 21. Prima della corsa in Qatar, però, un evento imperdibile, almeno per me che ne sono un grande appassionato, sono fissato con questa corsa, cioè con la Parigi-Roubaix, monumento del ciclismo mondiale, che si corre all'edizione numero 110. E io volevo farvi sentire un'intervista realizzata da Dario Ceccarelli con una voce importante, come quella del neo presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, il signor Mapei, che ci racconta la sua Roubaix. Sentiamolo. Parigi-Roubaix, presidente Squinzi, qual è la prima sensazione che ha quando sente questa parola? La corsa che amavo più di tutti, visto che l'abbiamo vinta 5 volte, di cui 3 volte abbiamo fatto primo, secondo e terzo, quindi è un po' la corsa che mi intrigava di più prima di entrare veramente nel grande ciclismo, ed è la corsa da cui siamo usciti con i migliori risultati in assoluto. L'edizione che ricorda con più soddisfazione è quella del 96, la famosa tripletta. Devo dire la verità che quella che ricordo con la più grande emozione è stata quella del 95, la prima vittoria di Franco Ballerini, che veramente fu un'emozione straordinaria, perché Ballerini veniva da quella sconfitta nel 93 di 8 centimetri contro Duclos Lassalle. Nel 94 ebbe sfortuna, forò 5 volte, io c'ero, tra l'altro c'era anche mia moglie che con la ruota per aiutarlo, ed era la ruota sbagliata perché gli aveva una ruota davanti e lui serviva una dietro. Nel 95, vedendolo vincere, fu un'emozione straordinaria, perché veramente Franco era il signor Roubaix. Sì, veramente signor Roubaix, lo ricordiamo tutti con cuore, perché è stato un personaggio unico. E tra l'altro nel mio ufficio, sulla mia scrivania, c'è il trofeo, il sasso della Roubaix del 95, che Franco, è una cosa che mi commuove sempre, me lo portò un paio di mesi prima di mancare per Natale del 2009, per lui mancò in quel maledetto incidente di rally a febbraio del 2010. Cos'ha di speciale questa Roubaix? Perché appassiona così tanto? perché è una sfida del ciclismo di una volta, non c'è una salita, però è la gara più dura del mondo, insomma, uno se non la vive dal dentro, se non vede lo sfinimento con cui gli atleti raggiungono il velodromo di Roubaix, non se ne può rendere conto, è veramente una cosa al di là di ogni immaginazione. Parliamo adesso dell'edizione del 96, che fu l'apoteosi della Mapei. E fu quella la corsa che probabilmente diede la più alta esposizione mediatica alla squadra Mapei nelle 9 stagioni che abbiamo fatto ai vertici del ciclismo mondiale. Però fu rovinata dalle polemiche che la seguirono. In effetti la vera storia è questa: quando i 3 Mapei, Museo, Bortolami e Taffi, rimasero in testa da soli, chiamarono e io dissi: beh, cercate di farli arrivare tutti e 3 assieme al velodromo di Roubaix e poi di chi se la gioca. Il direttore sportivo Patrick Lefebvre interpretò a modo suo la cosa, dettò l'ordine d'arrivo, cioè primo Museo, secondo Bortolami e terzo Taffi. In effetti fu un po' una forzatura, anche se bisogna riconoscere che in quel momento Museo era il leader della squadra. Però me la sono rivista recentemente in una registrazione di Sky, se non ci fosse stata la raccomandazione di farli arrivare tutte e 3 assieme, l'avrebbe probabilmente vinta Taffi, in quanto Museo forò e Bortolami ebbe un incidente meccanico e i ragazzi si aspettarono fra loro. Probabilmente Taffi sarebbe arrivato da solo. Taffi è proprio un corridore da Roubaix, è proprio il fisico. Taffi è un grande corridore da Roubaix. Ha vinto quella del 99, un'altra Roubaix che non dimentico, perché c'ero, e mi ricordo che Taffi attaccò nel momento sbagliato, perché normalmente si attacca sul pavé, perché è più facile fare la differenza, lui attaccò sull'asfalto, andò via guadagnando metro dopo metro, ma il più bello fu dopo, in uno dei tratti di pavé successivi, in quanto quando aveva circa un minuto e 10, minuto e 20 di vantaggio, che Taffi forò. E probabilmente in condizioni normali sarebbero da dietro, l'avrebbero ripreso, quindi avrebbero riaperto la corsa. Invece fortuna volle che Andrea Taffi forò a 50 metri dal direttore commerciale della Mapei Belgio, che era lì con le ruote nei tratti di pavé ad aspettare i corridori della nostra squadra che ne potevano avere bisogno. Quindi cambiò la ruota velocissima e ripartì ancora con 40 secondi di vantaggio e non lo ripresero più fino al velodromo di Roubaix. Bei ricordi, vero? Senta, proviamo ad andare al presente. Questo ultimo Giro delle Fiandre ha fatto vedere un ciclismo italiano che così ha risollevato la bandiera, ha rialzato la testa. Sì, lì io domenica anche lì mi sono sentito orgoglioso, perché i 3 italiani che hanno fatto la corsa, mi riferisco a Pippo Pozzato, Luca Paolini e Alessandro Ballan, sono 3 di scuola Mapei, perché Pippo era insieme con Fabian Cancellara, era l'esponente di punta dei giovani Mapei. Luca Paolini era il fido braccio destro di Paolino Bettini e Alessandro Ballan, anche lui passò al professionismo quando noi avevamo già lasciato il ciclismo professionistico, però crebbe in una delle nostre squadre dilettantistiche minori, la Trevisani di Remo Moso. Chiudiamo qui, domani è Pasqua, ci rilassiamo, sarà con me Andrea Zorzi per una puntata da viaggio. Grazie a Fabio Cantadoro in regia, Giorgio De Luca in redazione. GR.